posso solo immaginare quante realtà parallele viviamo. Viviamo. Posso solo ricordare qualche immagine sbiadita di una vita passata. Posso solo immaginare, sì, posso solo immaginare. Solo immaginare cosa prova il tuo cuore. Posso solo immaginare. Sì. Posso solo immaginare. Immaginare. Sì, posso solo immaginare cosa pensi e cosa stai sognando. Capirai che tutto ciò che hai fatto nella vita non durerà in eterno, resterà solo il ricordo. Emozioni che hai provato. Posso solo immaginare. Posso solo immaginare i tuoi sorrisi ed i tuoi pianti. Posso solo immaginare. Posso solo immaginare coraggio quando hai deciso di farla finita. Posso solo immaginare, immaginare. Posso solo immaginare la tua disperazione.